è vile, sottile, infine subire di idee per me, sostegno degno per Dio disegno, suo segno io non insegno, perché riparo non ballo col gusto caro, il giusto è chiaro, l'ingiusto è amaro, farò indicato al gitto e fitto, vai dritto, trafitto in un conflitto, ti rivedrò, magica finzione, lo so, mimica e canzone, no, ritmica espressione, amore, musica e passione, darò l'unica sensazione, sono lo stagione, ma l'incantesimo lo no, se ti dicessi che trasparente io sarò, e i riflessi che abbaglierò, ed è perfino, convincerò, che è tutto magico, ma l'incantesimo lo no, se ti dicessi che trasparente io sarò, ed i riflessi ti abbaglierò, ed è perfino, convincerò, che è tutto magico, ma l'incantesimo lo no, se ti dicessi che trasparente io sarò, ed i riflessi ti abbaglierò, ed è perfino, convincerò, che è tutto magico. Par hasard, tout est bizarre dans le parcours, et mes pensées courent le reflet dans ces images qui nagent dans ton territoire, jour et soir. Avec toi, je réalise l'histoire. Un tas de choses précieuses sous l'expression magique, on sent la passion brille même en transparence. Je donne la substance car tout s'évanouit dans le temps. Avec amour, je vis les bons moments. Pour tout se rend joli, j'appuie mon style de vie, mon love et ma musique. Pour tout se rend magique, c'est authentique, chérie. Les vibrations, connexion, tout donne de l'émotion. C'est ma sensation antique. Ouais chérie, c'est magique. Je garde les sentiments dans ce monde tragique. Mais rien n'est au hasard, trop bizarre. Mon éclair éclaire toutes ces valeurs autour de toi. C'est magique. Ma l'incantesimo lo no, se ti dicessi che trasparente io sarò, e i riflessi ti abbaglierò, ed è perfino, convincerò, che è tutto magico. Ma l'incantesimo lo no, se ti dicessi che trasparente io sarò, e i riflessi ti abbaglierò, ed è perfino, convincerò, che è tutto magico. Ma l'incantesimo lo no, se ti dicessi che trasparente io sarò, e i riflessi ti abbaglierò, ed è perfino, convincerò, che è tutto magico.